Avevano iniziato con due appartamenti, poi a furia di affitti in nero sulla pelle degli studenti universitari erano riuscite a costruire un mini impero immobiliare di un centinaio di abitazioni. Siamo a Bologna, dintorni dell'Ateneo, ma potremmo essere tranquillamente a Roma, Pisa, Padova, Palermo. Il fenomeno è esteso, il sommerso accertato nel settore degli affitti in nero agli studenti, secondo la Guardia di Finanza, è di 12,8 milioni di euro. Secondo il Sunia, sindacato degli inquilini, molto di più. D'altra parte, l'offerta di posti letto da parte degli atenei riesce a soddisfare a fatica il 10% delle richieste. E visto che i fuori sede, secondo il Ministero dell'Università, sono 500.000, il calcolo è presto fatto. Ma ora i controlli a tappeto stanno dando i loro frutti. A Padova, dove il 70% degli iscritti è fuori sede, un accordo con l'università e il comune ha permesso di recuperare 2 milioni di euro. In pratica, 8 affittuari su 10 affittavano in nero. In alcuni casi sono stati gli stessi studenti a rivolgersi alle Fiamme Gialle, il colonnello Ivano Maccani del comando provinciale di Padova. Dal fratello e sorella di mezza età che si sono dimenticati di dichiarare il 90% degli affitti percepiti alla pensionata usufruttuaria di un intero condominio composto da 12 appartamenti, tutti affittati in nero. A Roma, in 2 anni e mezzo di indagini, sono stati individuati 8.000 casi e ben 50 milioni di euro evasi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.